Sono le ore 22:44 di domenica 26 maggio 2024. E mentre procedo nel buio dell'area intorno a casa mia, e quindi alla mercé di qualsiasi branco di cinghiali, di quelli che circolano da queste parti, perché è il momento in cui si può dare l'assalto alle spazzature, penso di dovermi scusare per la lunga pausa, ma forse si capirà anche dal tono di voce. Sono reduce da una settimana di pressoché totale afonia. Che si è accompagnata naturalmente a tutti i sintomi delle sindromi respiratorie di questo tipo, naturalmente amplificate dalla mia condizione di cinquantenne maschio etero cisgender che trasforma qualsiasi linea di febbre in un morbo irreversibile. Ecco, magari non era irreversibile, però insomma ci ha messo un sacco di tempo andarsene via, e quindi lo dovete ringraziare se vi ho dato questa tregua, oppure sono io invece che vi devo scusare per non aver inserito delle registrazioni. Ma devo anche scusarmi della grande lunghezza di questo messaggio, che deve forse compensare lo hiatus, il buco di più di una settimana. Ma il tema è abbastanza, non lo so, io lo sento come urgente, e non è il solito tema dei media che raccontano le vicende di Gaza tutte da una parte. No, qui il tema è un altro, cioè mi sembra che i migliori talenti del nostro giornalismo siano tutti dalla parte della difesa incondizionata di Israele, o quasi, e dell'irrefrenabile attacco a chiunque provi a sfuggire a questo racconto pressoché dominante, ripeto, sui nostri media, anche se nella società civile io vedo molte persone protestare nelle piazze per la causa palestinese, e questo forse può voler dire qualcosa sulla distanza che c'è tra chi ha in mano il racconto e chi prova dal basso a raccontare una storia diversa. L'ultimo esempio di grande talento imprestato all'egemonia nel discorso pubblico è la rubrica di Stefano Cappellini, Hanno tutti ragione, che sarebbe una newsletter, quindi teoricamente non si potrebbe vedere, però poi insomma è abbastanza facile recuperare questi articoli perché vengono condivisi sui social media in barba al precetto riproduzione riservata, che da qualche anno abbastanza curiosamente accompagna qualsiasi cosa venga pubblicata da un giornale, nell'era della condivisione naturalmente. E questa rubrica, contiene così tanti di quei frame, anche molto molto ben dissimulati, anche da una indubbia capacità di scrittura, e quindi anche da un indubbio talento, da non aver neanche bisogno di dire cose false per disinformare più di qualsiasi sfacciata falsità. E avrei voluto fare un post sulla newsletter o su Medium dove dissezionare tutti questi frame, visto che alla fine ho scritto un libro che si intitola Unframing, e quindi volevo anche darmi all'esercitazione pratica. Ma appunto, quando ho sentito questa parola risuonare nella mia testa, esercitazione, ho pensato che la cosa migliore fosse fare un'esercitazione con i ragazzi del mio corso di Digital Humanities, e quindi ho dato in pasto a loro quell'articolo e me l'hanno dissezionato loro, hanno fatto loro un framing al posto mio. la prima cosa che hanno rilevato è questo titolo. Vabbè, allora forse bisognerebbe dire quale fosse il vero tema dell'articolo. Il tema doveva essere, diciamo, quello che è accaduto in occasione della visita del Presidente della Repubblica Mattarella alla Sapienza, ormai più di una settimana fa. Era andato per la giornata del laureato, doveva tenere un discorso al rettorato, ma nei giorni precedenti gli studenti hanno scritto una lettera, devo dire, rivolgendosi al Presidente della Repubblica con toni molto rispettosi, anche perché forse è stato l'unico a difenderli, gli studenti che negli ultimi mesi hanno protestato nelle strade, nelle piazze, si sono presi anche parecchie manganellate, e la posizione di Mattarella fu abbastanza inequivoca nel condannare l'uso del manganello, come ricorderete. Quindi, come dire, la posizione ufficiale, e questa è una cosa che va sottolineata all'inizio di questa discussione, la posizione ufficiale del movimento di protesta è quella che vede in Mattarella una figura di riferimento per difendere, per esempio, il diritto alla libertà di manifestare, alla libertà di espressione, contro ogni forma di violenza e di repressione. E quindi la lettera aveva toni estremamente rispettosi. E invece il titolo di questa newsletter, di tutti gli articoli usciti a commento della visita di Mattarella, è una frase, Mattarella pagherai tutto, che sarebbe stata pronunciata da qualche studente o da qualche manifestante in occasione, diciamo così, di queste proteste, perché poi sì, ci sono anche stati momenti di tensione, ma non con Mattarella, sono stati momenti di tensione con la polizia. C'è stato un corteo che ha percorso un breve tratto dei viali della città universitaria, poi non è potuto uscire perché, insomma, la polizia ha impedito al corteo di uscire. Ma non è questo il punto è che questa frase è la chiave con cui tutto il tema di quella giornata è stato rilanciato dai giornali. Uno slogan terrorista viene utilizzato per apostrofare Mattarella dagli studenti, che quindi hanno questo tipo di messaggio, diciamo anni 70, al centro della loro ragion d'essere, e non la lettera che hanno firmato, la lettera pubblica, che ha toni completamente diversi. Adesso io ho spulciato tutti i video di questa giornata alla Sapienza, sperando di trovare magari il momento in cui questa frase fosse stata pronunciata. Non l'ho trovato, ma il fatto di non trovarlo non vuol dire che non si sia verificato. Anzi, conoscendo come funzionano queste cose nei cortei di qualsiasi parte politica, è abbastanza facile che qualcuno si sia aggregato e l'abbia anche detta, che qualche solerte giornalista d'agenzia ci abbia fatto il lancio, permettendo a tutte le testate di farci il titolo. Ecco, questo è davvero un grande caso di framing. Si parla di tutt'altro, le richieste degli studenti sono completamente diverse, sono molto chiare, precise, in linea con quelle delle università americane. E cioè non interrompere il dialogo tra le università, che anche questo va chiarito, ma impedire che vi siano progetti di ricerca comune finalizzati alla realizzazione di strumenti bellici sempre più sofisticati. Il riferimento anche alle importanti industrie italiane di produzione di armi è piuttosto chiaro. Ecco, tutto questo è completamente fuori dal racconto. Al centro del racconto ci sarebbe questa frase, evidentemente a questo punto, o detta da uno studente manovrato, o da qualche manovratore, da qualche quarantenne, qualche cinquantenne, qualche nostalgico. Io non so come possa questa essere la notizia, francamente. Anche perché frasi antisemite sono state dette e anche condannate, giustamente, all'interno dei movimenti di protesta che ci sono nelle università americane, come a Columbia University, dove, come sappiamo, la protesta è organizzata anche da associazioni di studenti ebrei e addirittura in certi casi israeliani. Perché poi l'altra cosa che non si può mai dire è che sembra che Israele sia un blocco unico di persone tutte a sostegno delle operazioni militari a Gaza, quando soltanto poche ore fa nelle strade c'erano proteste contro Netanyahu molto molto più profonde, che vanno ben al di là del tema degli ostaggi e che si possono ricondurre alla stessa area politica d'opposizione che chiedeva le dimissioni di Netanyahu ai tempi della riforma della giustizia, che sembrava doverlo, proteste così grandi prima del 7 ottobre che sembravano doverlo risarcionare, e poi magicamente tirati fuori dal centro dell'agenda della discussione, perché adesso chiaramente di riforma della giustizia non si parla più, perché non gliene importa più nulla a nessuno. Quello che conta, mi sembra aver capito abbastanza chiaramente, è che questo governo estremista, è la parola che mi verrebbe da usare, rimanga in sella almeno fino a quando ci sarà un garante solido negli Stati Uniti, e quindi almeno fino a novembre, quando Biden forse avrà capito cosa dire, perché non mi sembra che fino a questo momento abbia le idee chiare, e quando magari invece ci potrebbe essere Trump, che dà ampie garanzie di sostanziale disinteresse su tutto quello che accadrà nella politica estera nei successivi 5 anni, quindi non solo via libera a Israele a fare quello che vuole, ma anche alla Cina con Taiwan, a Putin con l'Ucraina, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre, come forse sentite ancora, i postumi non se ne sono andati. Ecco, questo è il frame centrale di questo articolo, di questa newsletter di Cappellini. Tutta la notizia ruota intorno allo slogan terrorista. Poi all'interno c'è veramente di tutto. C'è uno straordinario talento sprecato nel cercare di nascondere ciò di cui forse dovremmo parlare. Addirittura cercando di addolcire la pillola in certi punti, quando si dice che vedere gli studenti che protestano dovrebbe sempre tenerci alto l'umore, evidentemente, perché è segno di vitalità, e poi c'è la citazione di un libro di Manconi. Tutto questo che serve fondamentalmente a evitare che l'articolo di Cappellini possa essere confuso con l'editoriale di Senaldi, che è molto più, direi sinceramente, da Libero, inizia con la sua solita filippica fascio trash, che è esattamente ciò che gli permette di essere invitato regolarmente a tutti i talk show del paese. Chissà, forse anche a Cappellini piacerebbe essere invitato ai talk show. Io mi limiterò semplicemente a infrangere pubblicamente il precetto della riproduzione riservata e a condividere nella bibliografia di Prendo Deliri questo PDF, perché mi piacerebbe che anche voi leggeste in che modo il talento degli scriba di ultima generazione viene sprecato in queste profonde operazioni di disinformazione.